Ovviamente ci sarà un bel po' di rock and roll e di rockabilly in questa scaletta, perché, perché i Rockers hanno per primi innalzato il mito della macchina. Vedremo che però non si tratta di una banale icona consumistica, quella dell'automobile, o perlomeno non soltanto il simbolo dei soldi, del boom economico, del far carriera. Sicuramente c'è tutto questo, ma non c'è soltanto questo, sarebbe un po' banalotto. C'è qualcosa di molto più profondo nell'amore quasi morboso per le lamiere e la vernice vinilica, almeno così ci suggeriscono alcuni autori di canzoni, alcuni musicisti. Sicuramente ce lo suggerisce la fantascienza, il cinema e tante altre belle cose, e ce lo suggeriscono un po' anche i Polkettes. Prossimo brano che ci andiamo a ascoltare appunto è loro, i Polkettes, con Big Green Car, e l'album è Polkettes Are Go del 1981, e questo pezzo, lo sentirete, parte con un riff di contrabbasso e batteria che sembra proprio il rombo di un motore. Ora, la versione che ci andiamo a sentire ovviamente è un po' compressa e digitalizzata, quindi si sente un po' così, ma insomma si sente un sacco, secondo me, il rombo di sto motore. I rockabilly, quelli veri, quelli da cui non a caso poi è derivato lo psychobilly, con i loro colori sgargianti, i loro eccessi di tutti i tipi, sono l'esatto opposto della tendenza a conformarsi tipica degli anni 60. La macchina in questo caso deve essere eccessiva, un pugno in un occhio, un'esplosione, deve distinguerti e farti emergere dalla normalità annoiata delle casette a schiera tutte uguali delle periferie bianche americane. Sicuramente i Polkettes, non erano così. Baby, just the other day in a big green car on the white highway, I saw my baby with another man, a great big guy with quite a tan. I saw my baby, well, what can I do? Said walk all alone and feeling blue. To me, he said, what do you say? You look kind of rough and you look kind of blue. He said, what the world is wrong with you? I said, now that it's a bad time, I told someone what was on my mind. It's your birthday, I bought you a car, it's big and green, the cutest thing that you ever did see. I took it to your baby, said I put it away, the guy that was driving you on the jet. We'll be right back. Fast Cars di Buzzcocks. Allora, io devo confessarvi, tanto ormai siamo tra amici, ci si può dire che io fino a tipo l'altro ieri ero convintissima che questo pezzo i Buzzcocks continuassero a ripetere come dei deficienti Buzzcocks, Buzzcocks, Buzzcocks, cioè praticamente dei dementi che ripetono all'infinito il proprio nome. Ecco, sì, comunque mi andava bene, eh? Cioè non è che mi sembrava strano, mi piaceva anche un sacco sto pezzo. Ecco, no, in effetti i Buzzcocks non ripetono come dei deficienti Buzzcocks, ma invece, c'ho un microfono che scoppietta, scusate, ma invece appunto dicono Fast Cars e dicono anche che le odiano. I hate fast cars, quindi odiano le macchine veloci. Come non capirli d'altronde? Io che mi ritrovo sempre con i maledetti SUV attaccati, che non si capisce bene dove si vogliono andare a schiantare. Ecco, sì, li capisco tanto i Buzzcocks e il loro odio per le macchine veloci. E questa Fast Cars era tratta, è stata pubblicata nell'album Another Music in a Different Kitchen del 1978, ma la versione che ci siamo andati ad ascoltare era quella tratta dalle Peel Sessions, una delle tante tante Peel Sessions. Allora, proseguiamo adesso su un'altra china, direi, con i T-Rex. È un po' d'obbligo quando si parla di macchine, e scoprirete ora il perché. Allora, partendo dal pezzo che ci stiamo per ascoltare, che è Get It On, dall'album Electric Warrior del 1971, uno dei più belli, tra l'altro, secondo me, dei T-Rex, o Tyrannosaurus Rex, per dirla con il loro nome antico. Nel pezzo si dice, tra le varie cose, you're built like a car, sei fatta come una macchina. E quindi sì, è in effetti un elogio a una, probabilmente donna, l'inglese ci permette di rimanere ambigui su questo, ma a un certo punto la si accomuna a una macchina, cioè una donna o un uomo talmente belli che assomigliano a una macchina. Pezzo questo che credo sarebbe potuto piacere a Ballard, forse gli piaceva davvero perché insomma i tempi lo consentivano, penso che molto probabilmente l'avrà ascoltato, ma non lo so cosa ne pensasse, ma secondo me gli sarebbe potuto piacere. Mark Bolan, il frontman, il cantante di T-Rex, si dice avesse una grande passione per le macchine, un'attrazione quasi fisica. La cosa strana è che Bolan non ha mai avuto la patente. E l'altra cosa strana è che su una macchina Mark Bolan c'è morto in un incidente stradale con la Mini Verde che guidava sua moglie Gloria Jones. Stavano tornando a casa dopo una cena fuori e la macchina impazzì, pare scoppiò un pneumatico e si andarono a schiantare contro un albero. Poi sì, Gloria Jones sopravvisse, in realtà appunto Mark Bolan no, e morì quasi subito. La ragione per cui Bolan non aveva mai voluto prendere la patente pare fosse la sua costante paura di morire in un incidente stradale. Tra l'altro, uno degli idoli di Mark Bolan era Eddie Corcoran, che ha anche conosciuto, e anche Eddie Corcoran è morto in un incidente stradale, se vi ricordate. Bolan e i T-Rex avevano un rapporto molto stretto con l'artificiale, sicuramente anche il resto del glam, ma insomma loro che ne sono stati i precursori, era molto evidente come la avessero. La macchina, così come anche la chitarra elettrica, diventava un mezzo per espandersi al di fuori del consueto corpo naturale. In anni in cui tutto doveva essere standardizzato in nome della cosiddetta naturalità, in cui gli hippie e la musica folk avevano imposto un rigido canone dove era ben definito cosa fosse naturale, naturale quindi normale, giusto, accettato e quant'altro, e cosa invece non lo era, quindi Bolan e i T-Rex, Bolan idolatra in qualche modo le macchine e l'artificio elettrico, sono degli alieni affascinanti venuti per liberarti dalla normalità beige, direi, di tutti i giorni, e attraverso questa attrazione quasi morbosa si ha accesso alle parti più scure e rimosse di noi stessi. Ballard, come dicevamo, no? Vi pare? Radio Wombat, Slick Chick, I social Wombat, prima che me lo dimentichi, il nostro sito wombat.noblogs.org, da cui probabilmente ci state ascoltando, e la casella di posta, posta wombat @insiberia.net, a cui potete e dovete scriverci per dirci che cosa ne pensate di noi. Sicuramente vi risponderemo con un tantino di ritardo, ma certo siamo qui a perdere tempo ai microfoni, non è che possiamo anche guardare la posta, siamo un po' lenti, va bene, però poi a una certa vi rispondiamo. Proseguiamo con qualcosa di un po' più faceto, diciamo, perché, oddio, non so, la canzone forse non lo è tanto, ma sicuramente l'interpretazione lo è, perché ci ascoltiamo la Airbag dei Radiohead, mamma mia, l'album è Ok Computer, ma in realtà quella che ci ascoltiamo noi non è la versione originale, niente affatto, perché insomma qui a Slick Chick non siamo banalotti, ma è la versione di Richard Cheese, e quindi l'album diventa Ok Bartender del 2009. Nell'originale dei Radiohead è la prima traccia di Ok Computer dell'album del 97, e pare che la canzone sia stata ispirata da un incidente automobilistico che aveva coinvolto Tom York e la sua attuale fidanzata, la fidanzata del momento, nell'87, quindi 10 anni prima, insomma, si era legata al dito. Non era successo niente di particolare, non si erano fatti particolarmente male, ma questo episodio dette modo a Tom York di svaneggiare un po', onestamente, sui rischi di andare in macchina quando tutto è vacuo, e Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, ecco, ma mettiamo la nostra vita in mano a delle macchine. Sopravvalutati, secondo me, ma vabbè, ma non diamo giudizi. Ascoltiamoci invece la versione di Richard Cheese, che sarà meglio. Jackknife juggernaut, I am born again. In the fast German car, I'm amazed that I survived. An airbag saved my life. In an interstellar burst, I'm back to save the you. Stella burst, I'm back to save the universe. Radiohead, ladies and gentlemen. Good evening. Ecco, eccolo qua. Ma invece adesso basta con gli incidenti, che poi sennò veramente ci prende un po' male, e parliamo invece delle macchine che vanno lavate. Il car wash, infatti, si intitola il prossimo pezzo. Scritto e prodotto da Norman Whitfield per la colonna sonora del film omonimo Car Wash, pezzo dei Rolls Royce del 1976. Norman Whitfield, appunto, compositore di molti classici della Motown, era stato scelto per scrivere le musiche del film. Stava, pare, pranzando al Kentucky Fried Chicken, che madonnina, cioè mi voglio immaginare cosa stava mangiando, ma è meglio se non ci penso, mentre guardava una partita di baseball, direi proprio perfetto, lo stereotipo classico. E a quel punto, in questa meravigliosa e ridente atmosfera, gli venne l'ispirazione. Pare che, per non perderla, la scrisse sul cartoncino delle patatine. E vabbè, è andata così. Il pezzo è, direi, effettivamente perfetto per il film Car Wash, che parla di un autolavaggio piuttosto funky. Lui e la band visitarono il set del film per capire un po' le atmosfere. Fu uno dei rari casi ad Hollywood in cui la musica fu composta di pari passo con il film, anziché come ultima cosa, un po' in fondo, un po' la figlia e la serva, ecco, la colonna musica in genere. Sentiamoli, Rolls Royce Car Wash. Rolls Royce Car Wash 1976. E ora tenetevi pronti, perché doveva succedere. Inizia la lunga sfilata delle Cadillac. Signori miei e signore mie, era inevitabile, si parla di macchine, e che si deve fare, è ovvio. Quindi ci avremo la Cadillac rosa, quella nera, quella rossa, Basta, basta, queste abbiamo. In particolare iniziamo da Larry Dowd, chissà come si pronuncia, Larry Dowd, Pink Cadillac, un pezzo del 1959 e poi ci appresteremo a sentire invece quella nera, quella rossa, eccetera, eccetera. Ma iniziamo dalla rosa, Pink Cadillac. Pink Cadillac, going down the road. I told my baby, what a tough look. Oh, baby, look. And then she said, I'd rather have you hunt alive. Well, come on, let's say our love is new. Well, drag strip, baby. Mighty fast, going down the road, fighting with past. I looked at my baby, she looked at me. The end of my room was more like far away, he won't be back for many a day. She says she loves me, she says she cares. Well, if she run a little bit, my hair will come on. Ve l'avevo detto d'altra parte che dovevamo, gliene avremmo date secche di rock and roll a questo giro, e non è mica finita, ma per niente, direi che anzi forse è solo iniziata, perché appunto, come vi dicevo, adesso passiamo alla Black Cadillac con Joyce Green. Joyce Green è un personaggino da riscoprire, secondo me, non abbastanza celebrato. Beh, c'è da dire che non è che ha fatto tutti sti pezzi, tutti sti dischi, ma insomma quel poco che ha fatto è stato interessante. Black Cadillac del 1960, e all'epoca Joyce Green era una ragazza di 19 anni, cresciuta nel Kansas. L'ha scritto lei questo pezzo ed è incredibilmente osceno e carico di rabbia per il 60, ma direi anche forse anche per dopo. Comunque, è alla faccia di chi dice che il rock and roll era pacificazione e addomesticamento. I caught you cheating and running round. Put you in a hole in the ground. I'm gonna ride to your funeral, Daddy, in a black Cadillac. Oh yeah, you think you are. Oh baby, but you can't come back. Now I'm gonna bump you off. Don't tell you the reason why. You work for me, dear Daddy. Oh, that you is alive. I'm gonna ride to your funeral, Daddy, in a black Cadillac. gone. A long tall man with a red coat on. Good for nothing, baby, you've been doing me wrong. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Who's been playing around with you? A real cool cat with eyes of blue. Trifling, baby, are you been true? Saw you at the break of day, dining and dancing in the cabaret. He was long and tall, he had plenty of cash. He had a red Cadillac and a black mustache. He held your hand and he sang you a song. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Of day, dining and dancing in the cabaret. He was long and tall, he had plenty of cash. He had a red Cadillac and a black mustache. He held your hand and he sang you a song. Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Who you been loving since I've been gone? Basta, la sfilata delle Cadillac è finita. Questo era Warren Smith con Red Cadillac and the Black Mustache, uscito per la Sun Records, ovviamente, nel 1957. Vi volevo ricordare di andare a sbirciare il palinsesto del Wombat su wombat.noblogs.org, alla voce palinsesto ovviamente, perché ci sono un bel po' di novità che, se non avete ancora notato, è l'ora di andare a vederle, perché ora non vi posso leggere tutto il palinsesto perché è lunghissimo e iniziamo davvero ad avere un affollamento quotidiano e di questo siamo contentissimi, ma vi posso dare delle dritte su alcune cose nuove che sono capitate, sono iniziate nelle scorse settimane, a cominciare dalla rassegna stampa settimanale, una rassegna stampa settimanale va in diretta a mezzogiorno ogni lunedì, per poi essere replicata in due fasce, la fascia di pranzo e quella di cena, il mercoledì e il venerdì. Quindi se ve la siete persa in diretta lunedì a mezzogiorno, la potete riascoltare il mercoledì e il venerdì a mezzogiorno sempre, oppure alle 19, quindi mentre state lì che state cucinando o per il pranzo o per la cena, vi potete ascoltare quello che è successo nell'ultima settimana, almeno quello che è arrivato alle orecchie del Wombat. Poi Senza Frontiere e Passaggio Nord-Ovest ha un pochino cambiato orario, ha slittato di poco, e Senza Frontiere è tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.30 in diretta lunedì, ma poi prosegue in replica per tutti i giorni fino al venerdì. A seguire alle 14.30 Passaggio a Nord-Ovest, anch'esso in replica tutti i giorni alla stessa ora, tutti i giorni feriali diciamo. E novità anch'essa delle ultime settimane, alle 15.30 inizia una sottorubrica, diciamo, una rubrica di Passaggio Nord-Ovest, ovvero la stampa rassegnata, una rassegna stampa critica della stampa mainstream riguardo al quartieri nord, diciamo la fetta nord della città di Firenze, ma in realtà allargata anche alle zone limitrofe. Poi altre novità che posso segnalarvi è lo slittamento di Coccoli al Silicio, che non è più in quell'orario che non ricordo quand'era, ma fatto sta che è lunedì alle 21. E poi insomma andate a rivedere perché ci sono diversi altri cambiamenti e nuove trasmissioni, quindi vi invito a consultare il palinsesto per tenervi aggiornati. Basta, detto ciò, questa piccola comunicazione di servizio, proseguiamo nella nostra scaletta, anche se siamo abbondantemente oltre la metà, e a questo punto vi devo far ascoltare Daniel Johnston, che comunque ci sta sempre bene e ogni occasione è quella giusta, ma ci stava sulle macchine a suo buon diritto, perché ha scritto un pezzo intitolato I'm gonna buy me a car, sto andando a comprarmi una macchina. L'album è Lost Recordings il secondo del 1983, e più o meno quello che Daniel Johnston farfuglia è questo: sto andando a comprarmi una macchina, la guiderò in giro, e quando me ne comprerò una verrò a casa tua a prenderti e ce ne andremo in giro. Non ho niente, ma ti amo con tutto il cuore. L'unica cosa che può tenerci uniti è una macchina. Che tenerezza, ma che uomo tenerezza. I'm gonna buy me a car. I'm gonna drive it around. And when I get me one, I'm coming to your house. I'll pick you up. Perché pure l'onda sonora che ho qui davanti è sghemba, cioè proprio anche graficamente riesce a essere sghemba. E che meraviglia, Daniel Johnston a me mi avrebbe conquistato subito, direi. Ma proseguiamo con un altro molto più figo, cioè il figo, ovvero Chuck Berry. Più antipatico, dai, diciamocelo. Comunque sì, Chuck Berry ovviamente ci doveva entrare riguardo alle macchine con Maybelline del 1955, successone direi proprio incredibile di Chuck Berry. Racconta di una gara di hot rod e contemporaneamente racconta anche della fine di una storia d'amore. Le hot rod, non so se voi avete idea di cosa sono? Io in realtà non sapevo cosa fossero, cioè l'avevo viste ma non avevo idea che si chiamassero così. Comunque, letteralmente in italiano, le bielle roventi, cioè attenzione, sono delle vetture spesso storiche, notevolmente modificate. In origine erano delle auto poco costose. In Italia sarebbe potuto, non lo so, modificare una 126, una 500. In America avevano un altro tipo di macchine. Erano auto appunto poco costose, alleggerite, togliendo i paraurti, i finestrini, il tetto e altre parti, diciamo, non indispensabili. Il motore era sostituito o migliorato per avere una maggiore potenza. E le ruote erano più grandi, l'auto era poi verniciata in modo appariscente, le tipiche auto con le fiamme roventi. Durante gli anni 50 e 60 questo termine era usato in realtà in senso dispregiativo per qualsiasi vettura che non fosse prodotta in serie. Quindi anche qui tutt'altro che l'omologazione e diciamo il boom economico che tende a uniformare le persone. Qui c'era anzi un volersi distinguere, essere volendo anche la feccia, che però è scintillante, è scintillante, accidenti. L'epoca di maggior sviluppo delle hot rod va dal 45 al 65, toccando il suo massimo proprio nel 1955, anno in cui Chuck Berry scrive Maybelline. In questo periodo c'era una grande disponibilità di vetture che erano state prodotte prima della Seconda Guerra Mondiale, che per avarie meccaniche erano state eliminate e che potevano essere acquistate a pochi soldi, ma che avevano ancora il telaio e la carrozzeria in buono stato. Dagli hot rodder queste vetture erano chiamate le vintage thin, ovvero in italiano le lattine d'epoca. La tipica vettura hot rod era una vettura pesantemente modificata, appunto, come dicevamo prima, nella quale tutti i componenti, quasi perlomeno tutti i componenti, motore, trasmissione, sterzo, eccetera, eccetera, erano stati sostituiti. I motori preferiti per queste trasformazioni erano il forte vuoto Flathead, vuoto insomma, V8, o lo Small Block V8 della Chevrolet, per le loro dimensioni relativamente ridotte, la potenza e la facilità di reperimento. L'età classica delle hot rod finì in realtà, purtroppo, ahimè, sia per la rarefazione delle vintage thin, sia per l'avvento di quelle che venivano chiamate le muscle car, le vetture, le macchine muscolari, vetture potenti e veloci prodotte in serie che non richiedevano quasi nessun intervento, mentre in realtà invece per realizzare una hot rod bisognava saper lavorare come meccanico, saldatore, carrozziere, avere anche un po' di estro, direi io. Quindi lunga vita alle hot rod e bu bu per le muscle car. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my Ford got hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. A rainwater blowing all under my hood. I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? Ora, rimaniamo sulle hot rod, siamo in un'officina e c'è un branco di meccanici ballerini che modificano appunto una hot rod. Cos'è? Vi viene in mente qualcosa? Sì, è esattamente quello che state pensando. Grease Lighting in particolare, 1978. Il parallelo donne motori qui è raffinato più o meno come, non so, un calendario appeso in un'officina e altrettanto divertente, direi. E ve lo ricordate, vero? Grease Lighting, colonna musica del omonimo film, e qui c'è John Travolta che la fa da padrone. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning. Greased lightning. It's a overhead lifter. Four-barrel bars, oh yeah. We talking. Fuel injection cut up in chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, never getting licensed. Grease lightning. Go, grease lightning, you're burning up a quarter of a mile. Lighting, John Travolta e tutto il suo team di allegri meccanici. Ma veniamo alle cose un po' più serie, sarà meglio. Julian Wolf, Driving This Highway. Non c'è dato di sapere in che anno è stata scritta, maledetto inutile internet, almeno io non mai riuscito proprio di trovare l'anno. È andata così. Potrebbe essere in un arco di circa 50 anni, ma vabbè. Chester Arthur Barnett, in arte Howlin' Wolf, diversamente da molti altri musicisti blues durante la sua scalata al successo, in realtà Wolf ottenne sempre un grosso riscontro commerciale e finanziario. Era uno che, insomma, in realtà gli è andata bene, possiamo dircelo, rispetto ai suoi colleghi poracci bluesman e blueswoman, direi che proprio gli è andata bene. Soprannominato da ragazzino anche Bigfoot e Bull Cow per la sua stazza imponente, adottò il nome d'arte con cui è diventato poi celebre alla fine degli anni 20. In omaggio, io pensavo che fosse per il suo modo di cantare, ma invece no, era in omaggio, beh, ci sono due versioni, o in omaggio alle storie sui lupi che era solito raccontargli il nonno, oppure all'omonima canzone del contemporaneo bluesman Funny Papa Smith, chissà, in effetti... io penso che la canzone Howlin' Wolf di Funny Papa Smith sia abbastanza quotata come spiegazione, che sta cosa che il nonno gli raccontava le storie dei lupi, bah, mi sembra un po' buttata lì, ma chissà. Da giovane il nostro ascoltava Charlie Patton, che tra l'altro gli insegnò a suonare la chitarra, bontà sua. I Mississippi Sheiks, Tommy Johnson e Jimmy Rogers, il cui Blue Yodel venne in futuro integrato nello stile dello stesso Wolf. In effetti c'è un modo particolarissimo che ha William Wolf di cantare, che lo riconoscerete, se non l'avete mai sentito siete pazzi, ma... comunque lo sentirete. Inoltre, Sonny Boy Williamson II, che per un periodo visse insieme a lui e a sua sorella, gli insegnò a suonare l'armonica a bocca. Insomma, ci aveva, direi, un bel entourage intorno. Negli anni 30 condusse una vita da agricoltore nell'Arkansas. Sto Arkansas ritorna in questa scaletta, evidentemente era prolifico e non solo di prodotti della natura. Sì, in effetti anche, è natura anche quella. Mentre durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale militava, serviva nell'esercito statunitense, come ha detto alla radio a Seattle. Allora, le prime registrazioni di Howlin' Wolf risalgono al 1951, quando aveva simultaneamente firmato un contratto per la Modern e per la Chess Records. Era un po' un furbetto, Howlin' Wolf. Per la Chess Records registrò nell'agosto del 51 How Many More Years e per la Modern invece collaborò con Ike Turner. Alla fine la Chess vinse la sua battaglia personale, la guerra, per rimanere l'unica etichetta discografica a tenere sotto contratto Wolf. Era un personaggino che si contendevano parecchio. Tra l'altro c'è un film sulla Cadillac Records che si intitola proprio Cadillac, se non sbaglio, che tra i vari personaggi, Etta James, Chuck Berry, parla anche dettagliatamente di Howlin' Wolf e lo presenta secondo me in maniera abbastanza realistica. Questo comunque è Driving This Highway di appunto Howlin' Wolf. Be careful on the road. Gonna buy me a Cadillac. I'm gotta be careful on the road. I'm gotta drive easy. The highwayman parked on the road. The red light says stop, and the blue light says go. The blue lights say go. I'm gotta be careful driving this highway road. to go. Check my oil. I'm going to the station and get the man to check my oil. Say my daddy's in a hurry. Oh, got to charge this oil. Caramelle per la gola mi danno alla testa, ho fatto un po' un pastrocchio, meno male che qui in regia mi aiutano. No, no, allora ho fatto un casino, non era la Cadillac, cioè non era il film Cadillac che parlava di della Cadillac Records, che peraltro non esiste, ma era il film Cadillac Records del 2008 che parlava della Chess Records, ovviamente, di cui peraltro raccontavamo anche prima. Ora lasciamo da parte Olin Wolf, i suoi ululati, i suoi yodel, le sue strane cose, e arriviamo invece alla bianchissima California dei Beach Boys. I Beach Boys con 409, l'album Surfing Safari, beh, proprio quello del 1962, e parla questo pezzo, come è abbastanza comprensibile e intuibile, della Chevrolet 409, appunto 409, con il suo imponente motore di 409 pollici, la Chevrolet 409 era di fatto la macchina degli street racers, ovvero i pazzi delle gare di strada, quelli che facevano le gare di automobili. Brian Wilson scrisse questo pezzo con il suo storico collaboratore Gary Usher. Wilson però non ne sapeva né di surf, fra l'altro, né tantomeno di macchine. Quello che ne sapeva era appunto Gary, l'amico Gary Usher, non so come si pronuncia, e lo traghettò nella cultura californiana degli anni 60. Cioè, hai capito, gli ci voleva un po' la guida, da solo non era capace. 409, questa è. She's real fine, my 409. She's real fine, my 409, my 409. Well, I save my pennies and I save my dimes. Giddy up, 409. For I knew there would be a time. Giddy up, 409. When I would buy a brand new 409. Giddy up, 409. Giddy up 409, giddy up 409, giddy up 409. Nothing can catch her, nothing can touch my 409, 409. Giddy up, giddy up. When I take her to the drag, she really shines. Giddy up, 409. She always turns in the fastest time. Giddy up, 409. My four-speed dual quad positive traction, 409. 409, 409. Giddy up, giddy up, giddy up, 409. Giddy up, giddy up, 409. Giddy up, 409. Nothing can catch her, nothing can touch my 409, 409, 409, 409, 409. Cioè, sembra quasi che sapesse cosa stava dicendo, no? Cioè, in realtà basta prendere un concetto, ripeterlo più volte in maniera ossessiva e abbiamo fatto un brano dei Beach Boys. Ma non era quello l'importante, ecco. Continuiamo, gli ultimi due pezzi sono direi di tenore completamente diverso e anche di umore completamente diverso, perché finora vi abbiamo parlato di un certo legame con le macchine, a volte morboso, a volte comunque affettuoso quantomeno. Adesso c'è chi le macchine decisamente le teme. Il primo della lista, beh, in realtà no, l'ultimo pezzo no, dai, non le teme veramente, sono un po' cupi di loro, però non è che temono poi le macchie. Ma Gary Numan sì, Gary Numan proprio le temeva, il pezzo famosissimo Cars, che non potevo non mettere in questa scaletta, dall'album The Pleasure Principle del 1979, una hit famosissima che sicuramente riconoscerete alle prime note. Gary Numan dichiara: mi trovavo nel traffico a Londra una volta e avevo un po' di problemi con della gente davanti a me, volevano picchiarmi e farmi uscire dalla macchina. Allora ho chiuso le porte e alla fine mi sono rannicchiato e mi sono estraniato dal mondo. Questa cosa mi ha fatto capire come ci si può sentire sicuri dentro una macchina, all'interno del mondo moderno. Quando sei dentro la macchina, la tua mentalità cambia completamente. È come se trattasse del tuo piccolo personale impero a quattro ruote. Questo pezzo, insomma, parla di come le persone usano la tecnologia e i beni materiali per isolarsi dal contatto con gli altri esseri umani. Gary Numan, tra l'altro, ha la sindrome di Asperger e ha sempre avuto diversi problemi a relazionarsi con gli altri, ma chi non ne ha del resto? Chi non ne ha è pazzo, è l'unica spiegazione. Safest of siamo arrivati all'ultimo pezzo di questa scaletta dedicata alle macchine, alle automobili. E scaletta e puntata che, anche se non c'entra molto, dedico a Ursula Le Guin, morta oggi, ahimè. E quindi chissà, magari la prossima avventura, trasmissione di fantascienza che stiamo aspettando, ne parlerà e la celebrerà come ne conviene, come è giusto. Ma intanto una piccola dedica inutile, ma sentita da Slick Chick. Finiamo così in bellezza, direi, questa scaletta macchinosa con i Sad Lovers and the Giants, che dedicano il loro pezzo alle automobili tedesche. Sì. German Cars, infatti. L'album Melting in the Fullness of Time del 2002, e i Sad Lovers and the Giants si dichiarano... Che si deve dire? Ognuno ha i suoi gusti, ognuno ha le sue peculiarità. Si dichiarano innamorati delle macchine tedesche e, come le chiamano, idoli d'acciaio con cuori silenziosi. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre con Slick Chick, sempre su Radio Wombat. Ovviamente vi lascio in ascolto delle repliche della nostra meravigliosa radio, o altrimenti della bobina e dei pezzi che abbiamo riservato per voi. A presto, ciao. Say goodbye and spend the future.